La quarta Mishnah del terzo capitolo del trattato di Pesachim tratta la preparazione della Matzah, come si fa ad assicurare che l'impasto non lieviti, non diventi chametz. Adesso vediamo che ci sono effettivamente due opinioni, anche se citiamo tre persone, ma le opinioni sono due. Vediamo cosa dice Rabban Gamliel. La Mishnah inizia, Mishnah Dalet, quarta Mishnah, inizia citando Rabban Gamliel. Rabban Gamliel Omer, il maestro Rabban Gamliel dice: Shalosh Nashim, è possibile che tre donne, Lashot Keachat, impastano al tempo stesso, contemporaneamente, Veofot Betanur Echad, e cuociono. Fanno cuocere l'impasto in un unico forno, zo achar zo, una dopo l'altra. Cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una realtà in cui si usa un forno condiviso da diverse famiglie, o un forno comunale o comunitario, eccetera. Quindi vengono diverse signore con il loro impasto, impasto di matzah, si intende, per Pesach, impasto kasher le Pesach, e Rabban Gamliel dice che è possibile che tre persone insieme nel senso contemporaneamente impastino una quantità che riempie l'intero forno. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che tre persone, ognuno di loro fa una quantità che riempie tutto il forno, vuol dire la prima donna che inforna, le altre due, il loro impasto attende, è in attesa. Allora il problema è che in questa attesa forse l'impasto possa diventare chametz. Giusto? Ok. Allora Rabban Gamliel dice, se sono tre persone e tre impastano, iniziano ad impastare al tempo stesso, una inforna, la seconda e la terza attendono, poi la seconda inforna e la terza ancora attende e poi inforna, dice, ancora in questa situazione non c'è problema di arrivare alla lievitazione, al chimutz, cioè al diventare, rendere chametz, e è permesso comportarsi in questa maniera secondo Rabban Gamliel. Senza problema di tempo, senza porre secondo il problema. Lui non si pone il problema in questo esempio. Secondo lui, dico. Vachachamim omerim, mentre invece gli altri chachamim dicono non è così. C'è troppo pericolo. Di conseguenza, offrono un altro schema di comportamento. E dicono così: Shalosh Nashim Oskot Babatzek. Non si intende che tre donne impastano al tempo stesso, ma quello che si intendeva dire è che tre donne si occupano dell'impasto, ma in maniera diversa, ovvero è come una catena di montaggio. Cioè, Achat, la prima, lascia, fa l'impasto stesso, mentre lei fa l'impasto, che questa sarebbe la terza, l'ultima, diciamo così, adesso vediamo lo schema, la terza fa l'impasto, ve'achat orechet, l'altra prepara l'impasto, cioè lo divide in palline, pezzetti, che poi saranno formati ognuno in un panetti, grazie mille. Lo divide in panetti. Leonardo, sei tu l'esperto o è Piero l'esperto? Allora, lo divide in panetti. Ve'achat ofa. E l'altra, e un'altra, inforna. Cuoce letteralmente inforna. Cioè, cosa vuol dire? Quando una inizia a fare i panetti, l'altra inizia a fare il suo impasto. Ok? Quando quella che ha fatto i panetti inizia ad infornare, la seconda si mette a fare i panetti e la terza inizia a fare il suo impasto. Quindi diventa come una catena di montaggio in cui ogni impasto non è fermo, non rimane fermo, e questo è il punto, ok? Quindi ognuna di queste tre donne si sta occupando del proprio impasto al tempo stesso, ma non che iniziano ad impastare al tempo stesso, come diceva Rabban Gamliel. Perché? fin quanto ci si occupa dell'impasto a lavorarlo, non ha la possibilità di riposare e di lievitare, di diventare chametz. Ok? Ora, Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva non aggiungerà un'altra opinione, ma si unirà a quanto è stato detto a nome generico dei Chachamim per contrastare quanto è stato detto all'inizio da Rabban Gamliel, di nuovo, sottolineare che non vogliamo essere d'accordo con Rabban Gamliel o come è stato espresso da Rabban Gamliel. Dice Rabbi Akiva: Lo kol hanashim ve lo kol haetzim ve lo kol hatanurim shavin. Non tutte le donne e non tutta la legna e non tutti i forni sono uguali. Vuol dire, tre donne possono impastare? No, non ogni donna, ogni persona impasta nella stessa maniera, con la stessa velocità o tempi. Non ogni forno usa lo stesso tipo di alimentazione che ha appunto il suo calore, i suoi tempi, e la struttura stessa del forno, prima abbiamo parlato di etzim, la legna, l'alimentazione, ma anche il forno stesso può essere, ognuno sa che quando usi un forno a cui non sei abituato, anche oggi, ti devi abituare prima di produrre un dolce come sei abituato, ti devi anche abituare al forno, perché ogni forno ha il suo modo, i suoi tempi, il suo calore, eccetera, eccetera. Quindi, di conseguenza, non è possibile, sottolinea Rabbi Akiva, a dire una cosa così generica, come diceva Rabban Gamliel, tre persone possono impastare insieme, perché appunto non tutte le persone sanno fare l'impasto nella maniera corretta e giusta per non entrare nel problema di chametz nel tempo stesso. Entro gli stessi tempi, l'alimentazione anche può essere diversa, di nuovo se parla di legna ci può essere una legna più secca, più umida, più spessa, più fine, eccetera, quindi è diverso, e anche i forni, come dicevo prima, ogni forno è diverso, e perciò Rabbi Akiva sta sottolineando che bisogna comportarsi secondo quanto è stato insegnato dai Chachamim, che ognuno, se si usa un unico forno, ognuno deve tenere occupato il proprio impasto in qualche maniera. E questo lo vediamo appunto anche, soprattutto lo vediamo in generale, ma in particolare lo vediamo con molta attenzione dove si cuoce la matzà per Pesach, ok? Anche dove si fa a livello industriale. Però vediamo che una delle cose che il Mashgiach o i Rabbanim che sono presenti si occupano più che altro è di vedere che l'impasto non rimane fermo e non riposa. E ci sono diversi metodi che usano per mantenere vivo, diciamo. Però nessuno ha detto qua che potevano fare tutte e tre, mettere un impasto unico e poi dividevano quando era cotto, no? Nella prima, facciamo prima. Se ognuno ha bisogno di un forno intero, allora non cambia, devi comunque fare uno dopo l'altro. Adesso la Mishnah aggiunge... Sì, però giustamente ci c'è la quantità di... Sì, il problema di quantità. Ora, la Mishnah aggiunge un'altra cosa. Alcuni includono questa frase nella citazione da Rabbi Akiva, mentre altri invece, commentatori della Mishnah, sono dell'opinione che questa seguente frase non è... La citazione non fa parte di ciò che abbiamo citato di Rabbi Akiva, è una frase indipendente della Mishnah condivisa da tutti. Quindi non rientra nella discussione tra Rabban Gamliel e i Chachamim con Rabbi Akiva, ma è una cosa, si chiama Stam Mishnah, cioè una Mishnah, un detto della Mishnah condiviso da tutti i Chachamim. La frase è questa: Ze Hakelal, la seguente è la regola generale. Ultima riga di questa Mishnah, Zeh Akelal, questa è la regola generale. Tafach, se l'impasto si è gonfiato un po', tafach vuol dire si gonfiò, si è gonfiato. In altre parole, se la persona vede che l'impasto sta iniziando ad assumere delle caratteristiche di lievitazione, indicative di lievitazione, allora Tiltosh Bezonen, lo fermi, cioè abbia, sono acqua fredda, si bagni le mani con l'acqua fredda e schiaccia l'impasto con le mani bagnate di acqua fredda, perché l'acqua fredda ferma la lievitazione, perché chiaramente è l'acqua tiepida o comunque la temperatura più alta che contribuisce ad accelerare il processo di lievitazione. Di conseguenza, se si vede che sta iniziando il processo, lo si può fermare attraverso questa azione. In altre parole, cosa sta dicendo la Mishnah? Che se tu vedi l'inizio della caratteristica della lievitazione, non è che devi tu subito prendere e buttare. È possibile fermarlo. Ok? Questo non necessariamente è sempre applicabile, perché uno deve anche essere esperto per capire a che punto è arrivato. Però la Mishnah in teoria sta dicendo che non sempre subito bisogna prendere e evitare, ma in alcuni casi si può fermare anche se già un po' è iniziato il processo. Ora, fino a qui tutto chiaro? Sì. Benissimo. La prossima Mishnah fa riferimento a degli elementi che sono simili a quelli di cui abbiamo parlato nella prima Mishnah di questo capitolo, e cioè di una presenza di chametz, ma non commestibile necessariamente. Per esempio nella colla, abbiamo visto che si usava una colla che era fatta con farina di frumento, quindi teoricamente chametz, ma un chametz che si chiama chametz nukshe, un chametz indurito. Quello che si intende dire è che non è commestibile e quindi chi lo mangia non rientrerebbe nel divieto base della Torah per il quale ci sarebbe la pena del karet. Non rientrerebbe, ma i chachamim comunque hanno decretato che bisogna togliere anche questo tipo di chametz prima di Pesach. E in seguito a questo, la Mishnah fa un altro esempio qui nella Mishnah Hei, e dice siur yisaref. Cosa è siur? Siur sarebbe l'impasto che è lievitato ma non totalmente. Perché diciamo questo? Perché abbiamo finito la Mishnah precedente dicendo che è possibile che in una fase si può fermare e poi usarlo come mazzà. Invece siur vuol dire che si è lievitato già troppo, non è più, non si può più usare, recuperare come mazzà. Ma neanche si è lievitato fino alla fine e si è indurito ed è diventata una cosa che non si può più mangiare. Esiste questo nella pizza? È chametz però. Non è né chametz né mazzà. Non è chametz totale. Ah. È a metà strada. Perché non è chametz totale? Perché non è commestibile. Per questo motivo, per questo lo leggo a quanto abbiamo detto nella prima Mishnah di questo capitolo, perché non si mangia. Il chametz totale assoluto è solo quello commestibile. Ok? Ecco perché il sapone con cui ti lavi il corpo, anche se c'è chametz, non è una cosa che mangi, non rientra nel divieto di chametz vero e proprio. Per un esempio faccio, no? Ecco, allora questo siur è un impasto che non è né di qua né di là e si indurisce e non si mangia. Allora la Mishnah dice Yisaref, questo va bruciato come se fosse chametz prima di Pesach. Ok? Il seur. Seur viene dalla parola seor, che vuol dire lievito. Seur Yisaref. Bisogna bruciarlo. Veha ochlo patur. E chi lo mangia durante Pesach è esente dal karet, perché è un chametz nukshe, è un chametz duro, indurito, cioè non commestibile. Chi lo mangia è esente dal karet, ma, come abbiamo detto, bisogna eliminarlo prima di Pesach. A posteriori, chi l'ha mangiato non è rientrato nella pena, nel divieto assoluto. Scusa, una curiosità. Sì? Si applica all'impasto della mazzà il prelievo? Assolutamente sì. È un pane? Sì, sì, a posto. È un pane, solo che non è un pane lievitato. Okay. Sì, la mitzvah della challah, sì, di prelevare la challah, si applica anche alla sì, sì, qualsiasi impasto, okay, di frumento, che sia azimo o non azimo. si applica la mitzvah. Superiori ai chili dovuti. Come? Sempre superiori ai chili. Certo, con tutte le regole della halal normale. Cosa che ho fatto a Roma venendo in comunità? Ero andato al fronte dell'Azio e avevo veronese. Ah. È stata una delle prime cose. Bellissimo. Eh sì, perché all'epoca c'era il forno delle mazzotte a via Veronese sotto, sì. Sì. Benissimo. Come? L'azima romana, me la ricordo. L'azima romana, quella alta, no? Certo. Allora, secondo esempio, siduk. Siduk letteralmente vuol dire cracked in inglese. Spezzato. Quando tu vedi cracks, no? Sì, frantumato. Incrinato, direi. Sì, non è proprio frantumato, cioè l'impasto è intero, ma sopra l'impasto sono tutte righe. Lo vedi tutto rigato e indurito sopra e rigato. Come si dice queste righe? Incrinato? Non so se c'è un altro più. Sì, forse incrinato. Cioè che il pezzo ancora sta insieme, no, il però pezzo è intero, come un vetro che è tutto segnato, ma sta ancora in piedi, non è caduto, è frammentato? Sì. Okay. Ok, ma non che l'impasto stesso è frammentato, la superficie, la crosta, la goccia? Ok, diciamo così per chiarezza, la superficie dell'impasto è tutto... Non proprio diviso, ma si vedono tutte le righe, diciamo, si è un po' incrostato e tutto diviso. Ok, questo è Siduk. Un impasto che arriva a questo punto, Yisaref, anche questo va bruciato prima di Pesach, Veha Ocheloi, chi lo mangia, Chayav Karet. In questo caso invece è passibile della pena del Karet, perché questo è considerato Chametz totale. Perché è commestibile ed è considerato lievitato, a differenza del primo che non era commestibile, quindi non rientra nella pena assoluta, anche se va bruciata. Qui va bruciata e rientra nel chametz assoluto. Ok? Come si vede la differenza tra seur e siduk? La Mishnah adesso chiarisce, perché forse all'occhio nudo non è chiaro. Allora la Mishnah dice, eisehu seur. Come si definisce il primo esempio, quello dei seur che abbiamo detto? La Mishnah risponde che carnei hagavim, come le antenne di una cavalletta, una lieve riga sull'impasto, 2-3 righe si sono formate. Allora lì si chiama seur, che non è considerato chametz totale, ma neanche, diciamo, si è fermata la lievitazione, come dicevamo, e quindi neanche è commestibile, allora lì va bruciato, ma chi lo mangia non è passibile della pena. Mentre invece il secondo esempio, la Mishnah lo descrive meglio adesso, siduk, il secondo esempio che abbiamo detto, queste righe che si formano di più sopra la superficie dell'impasto, la Mishnah lo definisce con queste parole, Shenit arvu sedakav ze baze, che i sedakim, cioè queste inclinazioni, si mischiano uno nell'altro, quindi è tutto rigato praticamente. È come un quaderno a quadretti, esattamente. Divrei Rabbi Yehuda. Quanto abbiamo detto finora? Questa è l'opinione di Rabbi Yehuda. Ovvero, ci stiamo riferendo in particolare, in specifico, a quanto abbiamo detto all'inizio, che se l'inclinazione è minima, come abbiamo fatto l'esempio delle antenne dell'insetto, del Hagavim, della cavalletta, questa è solo l'opinione di Rabbi Yehuda, ma i Chachamim sono rigorosi anche su questo. Va Chachamim omrim, ze va ze ha'ochlo chayav karet. Il caso descritto da Rabbi Yehuda, che sono come antenne, ok, il secondo sono tutti d'accordo, in tutti e due i casi va bruciato ed è considerato chametz totale, c'è il karet. Quale invece, secondo i chachamim, il caso di seur in cui la persona che se lo mangiasse sarebbe invece esente della pena del karet? Per loro è un'altra situazione. Veisehu seur, e qual è lo seur che per invece i chachamim sarebbe esente? Secondo loro qual è il seur? Cioè il seur descritto da Rabbi Yehuda per loro è chametz. Non è seur, è chametz proprio. Mentre invece seur per loro qual è? Kol shechesifu panav è un impasto il quale su la quale superficie panav il volto, cioè la superficie è impallidita, si è impallidita, che Adam sheamdu sarotav, come una persona che gli sono drizzati i capelli, vuol dire quando una persona ha preso uno spavento e si è impallidita, si è impallidito il volto della persona, basta che si impallidisca l'impasto, ma che non è arrivato fino alle spaccature anche minime, quello è il seur per il quale va, il quale va bruciato, ma chi lo mangia sarebbe esente. Perché quello che non è ancora arrivato a una lievitazione che possiamo considerare totale secondo i Chachamim. Mentre invece le spaccature anche minime, per i Chachamim già è considerato un Chametz totale. E l'Alaha segue appunto l'opinione dei Chachamim, come per la regola che in generale si segue, che nel caso di una discussione tra un singolo e una maggioranza, diversi Chachamim, si segue l'opinione della maggioranza. Ok, concludiamo qui e poi proseguiremo se Dio vuole la prossima volta.